È straordinario quanto interesse provi per i vocabolari che scrive di fatti linguistici, senza essere esattamente del mestiere. Sui giornalisti, per esempio, quegli oggetti librari dall'incerto status, sospesi come sono tra la funzione normativa e quella di semplice repertorio, esercitano un fascino incontrollato. Ogni volta che esce una nuova edizione dello Zingarelli o del Devoto Olio o di chissà chi, e succede spesso trattandosi di prodotti di intenso consumo scolastico, si può contare almeno su un paio di servizi dedicati a com'è cambiata la lingua italiana e a cosa di fronte a tale cambiamento debba fare o non debba fare chiunque voglia parlare correttamente. Così la Repubblica di martedì scorso spende una pagina intera, illustrata a colori, sul dizionario delle parole morte. Ci informa sin dall'occhiello che ogni anno almeno 600 neologismi entrano a far parte della lingua italiana, e va bene, ma che ci sono anche decine di termini che vengono dichiarati estinti, non che si estinguono, che vengono dichiarati estinti. Ed è su questi che soprattutto si concentra l'attenzione dell'articolista. Ci informa che così quest'anno dai dizionari sono spariti, oltre ad alcuni mostri semantici di scarso interesse come l'eurolira e la turismatica, una serie di termini indicanti professioni ormai desuete, tipo le rammagliatrici, che sono donne che riparavano le calze di nylon, l'abbadatore, operaio in una solfatara, il lanavendolo, che vendeva in strada la lana naturalmente, il vendispago, detto anche canapaio, e il fatturante, che stava a quanto pare per cottimista, anche se in giro di gente costretta da un diffuso inganno normativo a emettere fattura, portandoci dentro come se lavorasse a cottimo, ce ne credo oggi più di prima. E se sembra difficile che qualcuno possa dispiacersi per la sparizione della menomanza, che vuol dire diminuzione, e del valicatoio, che era, ci crediate o no, una passerella su un torrente, per non dire delle checche e dei lacchezzi che indicavano sempre i capricci e le moine in bocca toscana, permettetemi di esprimere tutto il mio sincero rimpianto per la scomparsa semantica delle subrettine, che erano oggetto di diffuse cupidice teatrali e non solo teatrali ai tempi della mia giovinezza, e oggi, ahimè, hanno dovuto lasciare campo a quel pallido surrogato televisivo che sono le veline. L'elenco, così come ve l'ho recitato, può dare una certa impressione di casualità, ma sembra che non sia esattamente così. Alla redazione dello Zingarelli, dove si fanno 15.000 interventi all'anno su 130.000 parole, mica paglia, lavorano, si scopre, ben 400 collaboratori, coordinati dal professor Mario Cannella, e non c'è termine desueto che possa scampare alle loro premure. Pensate che laggiù tengono persino una cartellina con sopra scritto braccio della morte, e per qualche anno le parole passabili di esecuzione vengano tenute lì sotto sorveglianza, poi una volta l'anno si riunisce il Gran Consiglio e alcune vengono graziate, altre zac. Testuale, anche se orribile. Io personalmente spero che tutto ciò non sia vero. Che se lo sia inventato l'articolista o di propria incauta iniziativa, perché traviata dal professor Cannella. Perché, a parte il fatto che con entità come i bracci della morte non mi pare bello scherzare, è chiaro a tutti che non c'è proprio motivo di togliere dai dizionari i termini usciti dall'uso. Quella di registrarli, anzi, dovrebbe essere una delle funzioni precipue di quelle opere e dei loro autori. Cosa dovrebbe fare un poveraccio che, leggendo un testo di qualche anno fa in cui si raccontino per esempio i casi di una subrettina tutta checche e lacchezzi, che decisa a lasciare quell'ambiguo mestiere per amore di un onesto vendilana o lanivendolo, decide a scapito della menomanza di salario di rifarsi una vita come rammagliatrice, cosa potrebbe fare costui di fronte a eventuali difficoltà semantiche se non consultare un buon vocabolario, quando non si conosce il senso di una parola perché dotta, insolita, rara o appunto desueta? Di solito si fa così, ma chi ricorresse per avventura all'ultima edizione aggiornata e riveduta, pur potendovi trovare ogni possibile informazione sulle veline, ogni possibile inutile informazione sulle veline, perché cosa siano le veline lo sappiamo tutti, non si chiarirebbe nessuno dei suoi pur legittimi dubbi. In realtà, l'unica motivazione possibile di questa specie d'abiura degli obblighi del buon lessicografo si trova tra le righe. Quando si accenna come unica alternativa alla pratica di cassare questa o quella parola, la possibilità di rimpicciolire i caratteri e risparmiare le righe. E capirete, con 700 neologismi all'anno, il vocabolario, inteso come repertorio di parole, cresce più di quanto possa permettersi il vocabolario, inteso come volume in vendita dal cartolaio. E non potendosi rimpicciolire i caratteri all'infinito, che anzi l'analfabetismo crescente raccomanda l'adozione di un corpo ben leggibile, non c'è altro mezzo che quello di limare i contenuti, se non si vuole proporre tomi sempre più massicci e costosi e finire quindi fuori mercato, che, ammetterete, è un buon esempio di come la logica del commercio possa rendere potenzialmente inutili gli stessi articoli che propone ad acquisto. Il risultato, naturalmente, è che al vocabolario, monco sul piano dell'informazione, finisce col restare solo la funzione prescrittiva, quella di indicare le parole di cui ci si può, anzi ci si deve servire. Niente termini desueti, dunque, tranne forse quelli testimoniati dai buoni attori, come si diceva una volta, e dei neologismi soltanto quelli che riescono a filtrare attraverso le barriere rette dai 400 collaboratori del professor Cannella, che saranno, non ne dubito, bravissime persone, ma non si vede perché dovrebbero essere gravati da un compito tanto oneroso. È la logica della crusca, d'altronde, la logica di tutte le accademie e di tutte le istituzioni docenti, dall'asilo in su, da sempre impegnate nello sforzo di imbrigliare la natura incoercibilmente anarchica della lingua, la sua capacità di creare tutte le parole che vuole, di cassarle dall'uso per i motivi più futili e di ripescarle senza problemi quando così piaccia ai soggetti che parlano e scrivono. Il problema potrà sembrarvi banale, di poco conto, ma quella di ricorrere nell'espressione dell'idea a tutte le chieche, a tutti i lacchezzi che vogliamo, è una componente non piccola della nostra libertà, e quella libertà che l'autoritarismo delle istituzioni e delle leggi del mercato ogni giorno si sforzano congiuntamente di sopprimere.